Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, bentornati al podcast di Effetto Giorno, grazie come sempre per averlo scaricato e mi raccomando, come sempre, di iscrivervi tramite il vostro browser o tramite il vostro smartphone. I metodi sono abbastanza semplici, in maniera da avere costantemente l'aggiornamento, la notifica quando arriva il nuovo podcast di Effetto Giorno. Sono molto contento per la puntata di oggi, perché è una puntata, la nostra è una trasmissione di attualità, insomma il rischio, come si dice per i giornali, no? È che servano, il giorno dopo servono solamente ad incartare il pesce. Invece questa volta abbiamo un paio di interviste, anzi tre per dir la verità, che secondo me sono interessanti, quindi vanno bene anche per questo fine settimana, per questo sabato e domenica. Queste tre interviste sono: la prima al ministro della giustizia Andrea Orlando sul tema delle responsabilità civili dei magistrati, che ci aiuta anche, oltre a rispondere alle polemiche da parte dell'ANM, ci aiuta anche a capire esattamente come funzionerà questa legge, almeno nelle intenzioni del governo. La seconda a Marzio Babille, che è responsabile dell'UNICEF in Iraq e ci dà un quadro della situazione. La terza, sempre per rimanere sull'Iraq, dopo la devastazione delle statue da parte dell'ISIS nel museo di Mosul, è ad un archeologo che è il responsabile della missione archeologica italiana in Iraq, una missione che ancora prosegue, che ci dà dei dettagli su quello che è avvenuto, su quello che è stato distrutto, ma ci racconta anche il loro lavoro sul territorio e ci spiega perché gli estremisti islamici si accaniscono contro questi simboli. Naturalmente però, dal punto di vista della stretta cronaca, non possiamo che partire dall'economia e dallo spread, dall'andamento dei titoli di Stato, che è in netto calo. Ce lo racconta Deborah Rosciani. Possiamo parlare di un vero e proprio rally sui titoli di Stato europei, esattamente come si sta manifestando in borsa da qualche giorno a questa parte. Questo andamento condiziona adesso anche le obbligazioni governative. Un rally che è sostenuto dalle parole di Mario Draghi, naturalmente, che continua in ogni sede a sottolineare che gli acquisti di titoli di Stato che verranno lanciati a partire dalla prossima settimana e contemplati dal quantitative easing andranno avanti fino a quando l'inflazione non si riporterà vicina al 2%. Cosa vuol dire tutto questo? Che il differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale stamattina ha toccato i 98 punti base, livello che non vedeva da maggio del 2010, ed è in discesa anche il differenziale fra bonus e bund tedeschi, che ha toccato invece i 94 punti base. Ma naturalmente soffermiamoci sul tema che interessa più noi: il rendimento del titolo decennale, che già continuava da giorni a toccare minimi su minimi, stamattina è arrivato all'1,31%. Questa situazione naturalmente stamattina porta le borse in positivo, dopo una partenza un po' più stentata, porta in territorio positivo soprattutto i titoli del settore bancario. A Piazza Affari la regina della seduta è Monte dei Paschi, che guadagna l'1,57%, fra i bancari la regina in realtà è G-Tech, bene Intesa più 1,29%, bene la Popolare dell'Emilia Romagna più 0,9%, complessivamente Milano guadagna circa 0,5 punto percentuale, mentre rimangono un pochino indietro le altre piazze europee. Segnalo solo che anche Tokyo stamattina ha toccato i suoi massimi da 15 anni a questa parte, come ha fatto ieri sera il Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici americani. Ci sono altri dati di questa giornata che sono interessanti, sono quelli che arrivano dall'Istat e che riguardano l'inflazione. Rallenta la deflazione, un meno 0,2% in febbraio, secondo quella che è la stima preliminare. Ci sono dei segnali però che arrivano dai carburanti e ci faranno arrabbiare un po' tutti, perché benzina e diesel riprendono la corsa. Finita la tregua per gli automobilisti sul prezzo dei carburanti, ma comunque c'è stato un risparmio. Con una raffica di rincari negli ultimi giorni e con l'ultima ondata registrata oggi, i prezzi dei carburanti sono tornati a salire, con la benzina verso quota 1,7 euro al litro, in un quadro in cui, secondo l'Istat, il carrello della spesa ha ripreso a correre a febbraio, con un'inversione di tendenza nei consumi. I prezzi della benzina infatti crescono dell'1,4% rispetto al mese precedente e quelli del gasolio dello 0,7%. Gli altri carburanti sono sono invece in calo del 2,8. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio praticato della verde va oggi dall'1,661 euro al litro di Eni all'1,690 di Tamoil. La punta massima al sud è di 1,763 euro al litro. Consumatori in allarme per il Codacons, gli aumenti della benzina sono ingiustificati con un maggiore sborso di quasi 11 euro a pieno. Una sola consolazione, secondo il centro studi Promotor, in base ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, in gennaio famiglie e autotrasportatori hanno risparmiato 761 milioni sugli acquisti di carburanti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica che ci racconta innanzitutto dello scontro interno al Partito Democratico, della minoranza che decide di disertare la riunione con Renzi. L'appuntamento è per le 14, un incontro dimezzato, quello del premier Matteo Renzi a Montecitorio con i parlamentari PD. La minoranza non ci sarà, capitanata dall'ex segretario per Luigi Bersani. In sostanza Bersani contesta che gli organismi dirigenti debbano diventare figuranti di un film. Parole dure, ma Bersani non si ferma alla riunione di oggi. Bersaglia anche il Jobs Act, che mette il lavoratore, dice, in un rapporto di forze pre-anni 70 e si pone fuori dall'ordinamento costituzionale. Arriva anche un avvertimento dell'ex segretario sulle riforme istituzionali. Il combinato disposto tra Italicum e Senato non elettivo rompe l'equilibrio democratico. Se va avanti così non accetterò mai di votare la legge elettorale. Stamattina Bersani ha poi ribadito che ha inviato le sue osservazioni brevi e democratiche. Replica tenta conciliante del presidente del Consiglio Matteo Renzi: nessuno ha la verità in tasca e nessuno vuole ricominciare con i caminetti ristretti vecchia maniera. Siamo qui per il confronto, dice Renzi, sempre aperto e inclusivo, senza che nessuno si senta escluso. Ma la fronda ci sarà, Simone, sarà cospicua malgrado le parole di Renzi, assenti Davide Zoggia, Alfredo Dattorre, Stefano Fassina e ovviamente Bersani. A te, Simone. C'è un appuntamento importante domani, è la manifestazione della Lega. Già si presentano tensioni al di là della partecipazione, al di là delle parole d'ordine della manifestazione. Si teme che ci possano essere scontri e violenze. Sia la cronaca della manifestazione, che ci sarà domani e quindi una pre-cronaca se vogliamo, sia quelli che sono i rischi per la sicurezza nel servizio. Quella di Roma sarà una piazza arrabbiata ma pacifica, parola di Matteo Salvini, che descrive così lo spirito della manifestazione che domani porterà nella capitale migliaia di leghisti. Il palco di Piazza del Popolo sarà aperto anche ai rappresentanti delle categorie produttive e della società, dagli artigiani ai genitori separati, dagli esodati ai poliziotti, il mondo di chi non ha risposte da questo governo e da questa Europa, ha spiegato stamattina il segretario federale del Carroccio. Superamento della legge Fornero, riduzione delle tasse e lotta all'immigrazione clandestina saranno i temi al centro del confronto. Il programma prevede anche un videomessaggio di Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale francese. A fianco della Lega saranno anche Fratelli d'Italia e Casa Pound, mentre i rappresentanti dei centri sociali hanno organizzato una loro contromanifestazione in una zona diversa della città. Alcuni militanti dei movimenti per la casa però stamattina sono entrati per un'occupazione simbolica in una delle due basiliche che si affacciano su Piazza del Popolo. I manifestanti, che avevano uno striscione con la scritta "Mai con Salvini", sono stati portati via dopo poco dalle forze dell'ordine. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'intervista realizzata con il ministro della giustizia Andrea Orlando sul tema della responsabilità civile dei magistrati. Ascoltiamo. E siamo con il ministro della giustizia Andrea Orlando. La prima domanda che le voglio fare, questa intervista verterà prevalentemente sulla responsabilità civile dei magistrati, è questa. Da quel che mi sembra di intuire, anche dalle interviste che ha rilasciato oggi un paio di quotidiani, non se l'aspettava una reazione così dell'ANM e dei magistrati, nel senso che mi sembra aver detto, nel corso dell'iter di approvazione non è che si siano fatti sentire molto, si fanno sentire adesso che è approvata. Ma come mai? Perché, secondo lei? Ma non so, credo che nella magistratura ci sia un passaggio storico, nel senso che cambiano alcune funzioni, c'è anche in qualche modo una difficoltà dovuta anche alle situazioni materiali, la carenza di organico, l'introduzione di nuove tecnologie. Insomma, credo che sia un momento, un passaggio difficile, come molti altri ambiti della pubblica amministrazione, della vita pubblica del paese. E credo che su questa legge si scarichi anche un po' questo malessere, con letture che vanno molto al di là del contenuto della legge stessa. È sembrato quasi amareggiato da questa reazione, lei? Sono stato amareggiato soprattutto dalla supposizione che questa legge fosse in qualche modo uno strumento di intimidazione, di condizionamento. Si è parlato di normalizzazione, perché noi dovevamo intervenire sulla base di una sentenza europea che ci chiedeva di adeguare il modo in cui vengono risarciti i nostri cittadini per violazioni del diritto comunitario. Non ci sembrava logico utilizzare un metro per il diritto comunitario e un altro per il diritto interno, e ci sembrava l'occasione anche per fare il punto dalla fine degli anni Ottanta sul funzionamento effettivo della cosiddetta legge Vassalli, della legge sulla responsabilità civile. Lo abbiamo fatto con la massima attenzione a non entrare in ambiti in cui è pericoloso entrare, l'interpretazione, la motivazione del giudice, e ci siamo limitati a sanzionare il giudice soltanto quando è responsabile per una negligenza di carattere inescusabile, dice la legge, oppure per dolo, ma questo è un altro discorso, perché in questo caso ci sarebbe anche un reato. Ministro, ci spiega una cosa, questa negligenza inescusabile, che cosa vuol dire? Quanto si estende, quant'è potenzialmente estensibile questa negligenza inescusabile? Dunque, allora, mi dia due secondi in più, perché qui va precisato un punto che è stato molto poco compreso. La legge, per quanto riguarda la responsabilità dello Stato, si attesta su un parametro che è quello che ci ha indicato la Corte europea. Lo Stato è responsabile nei confronti del cittadino tutte le volte che c'è dolo, una colpa grave o un travisamento dei fatti o degli atti, cioè praticamente uno non ha letto le carte, ha scambiato una persona per un'altra, cioè un errore veramente grave. Però il giudice viene chiamato in causa con la rivalsa soltanto quando questo suo comportamento è ulteriormente caratterizzato appunto da questo parametro, quello della negligenza inescusabile, che è un parametro definito dalla giurisprudenza e che in sostanza significa che, appunto, ciò che dice il termine stesso anche nel significato letterale, che si tratta veramente di una forma di negligenza, quindi di inadempienza a proprio dovere, che non è in alcun modo, che non può essere in alcun modo giustificata. Tra l'altro, noi siamo anche intervenuti per evitare che ci fosse una connessione tra il tipo di sanzione, cioè tra il quantum della sanzione e il quantum del giudicato. Mi spiego. Sarebbe stato pericoloso un criterio, come pure era presente in alcuni emendamenti e anche a un certo punto nel testo di legge che era in elaborazione al Senato, sarebbe stato pericoloso che quando si giudica su un grandissimo affare, su una grandissima vicenda di carattere finanziario, ci fosse un nesso tra la potenziale responsabilità e appunto il quantum di quanto si sta trattando in quella causa, perché chiaramente avrebbe fortemente intimidito il giudice. Il giudice risponde invece solo proporzionalmente in ragione del proprio stipendio, sì. Naturalmente anche in ragione della gravità, ma la sfera di influenza, l'ambito su cui può essere punito e sanzionato, quello che deve nel momento in cui ha provocato un danno, non è in proporzione al danno che ha fatto, ma è in proporzione a quello che guadagna. Anche questo è un criterio, diciamo, per salvaguardare la magistratura da pressioni psicologiche, pressioni esterne, ed è un unicum nella nostra pubblica amministrazione, perché nel resto della pubblica amministrazione il danno provocato è proporzionato naturalmente a quello fatto. Sì. Cioè, quindi anche poi per chiarire ai nostri ascoltatori, lo chiarisco direttamente io, fino a un certo punto, per così dire, paga direttamente lo Stato, senza rivalersi in sostanza sullo stipendio del magistrato, nel momento nel quale scatta questa negligenza inescusabile, c'è anche lo stipendio del magistrato, sì, ad essere colpito. Nel caso della colpa grave, perché nel caso del dolo è automatico, cioè nel caso, sì, del dolo, cioè se uno proprio ha voluto fare una cosa volontariamente, ha commesso quella violazione di legge, allora in quel caso viene chiamato in automatico, diciamo, sì, a rispondere. L'altro punto che sta facendo discutere e che crea problemi ai magistrati e all'ANM è questa assenza del filtro per i ricorsi. Dicono il rischio è che ci siano, si innestino una serie di processi sui processi, perché mentre prima tutto questo era filtrato, adesso questo filtro viene a cadere. Questo rischio lei lo intravede oppure no? Guardi, prima non è che c'era, era filtrato, era murato, mi consente il termine, nel senso che per passare al merito bisognava appunto superare questo vaglio molto discrezionale del magistrato che poteva rigettare senza particolari motivazioni il ricorso dicendo che era infondato. Ma non si poteva trovare una via di mezzo tra il muro, come dire, e un filtro un po' più morbido? Ma noi riteniamo che in generale si debba fare una politica per disincentivare le liti temerarie nell'ambito del civile, non solo quando si tratta di un danno che deriva da una responsabilità civile di un magistrato. Riteniamo che ci possano essere degli strumenti, alcuni li abbiamo già introdotti, che disincentivano in generale qualunque azzardo. E che ci sia all'inizio del processo una valutazione sommaria ma non specifica rispetto a questo tipo di cause che consenta al giudice di scartare la domanda quando è palesemente infondata o irricevibile, ed è una cosa che stiamo facendo, che sono alcune norme che abbiamo già introdotto nel processo civile, altre ancora le introdurremo. Quindi rafforzerete il disincentivo alle liti temerarie, che avrà un impatto anche su questi processi sui processi, per così dire. Esattamente. C'è un altro punto sollevato tra l'altro da Piercamillo Davigo oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano, il rischio che le parti economicamente forti da questo punto di vista abbiano un vantaggio nel ricorrere contro i magistrati, cioè che molto semplicemente chi si può permettere più avvocati, insomma viene quasi evocata, seppur non esplicitamente, una sorta di giustizia di classe. Questo ahimè è valido in generale, nel senso che è chiaro che chi ha più strumenti di difesa nel processo ha più possibilità di qualunque tipo di processo, ha più possibilità di far valere i propri diritti. E qui noi abbiamo lavorato perché ci siano più strumenti di difesa per i meno abbienti, abbiamo riformato la difesa d'ufficio e poi io credo che quella cosa che dicevo precedentemente, cioè il fatto che il magistrato non debba tener conto della dimensione del giudicato, ma soltanto in caso di negligenza inescusabile rispondere in ragione del proprio stipendio, sia una garanzia sufficientemente forte per metterlo a riparo, diciamo, da una pressione economica indiretta. E credo che questa sia la vera risposta. Che nella società ci siano delle diseguaglianze di partenza è un dato che forse va contrastato in generale, non soltanto quando la questione riguarda il rapporto tra individuo e processo. Il ticket della riforma, cioè lei ha detto nei prossimi mesi vedremo come funziona e su quella base andremo a ragionare se modificare qualcosa. Che tempi si è dato? Ma io credo che 6-8 mesi possano essere un periodo nel quale si può incominciare a vedere esattamente qual è l'impatto, tenendo anche conto che ci sarà una dinamica che è fisiologica. Noi lo verificarono al tempo dell'introduzione della Vassalli, noi l'abbiamo verificato recentemente con una norma che ha fatto discutere meno, che è quella per il risarcimento per l'ingiusta detenzione, che la dinamica è che all'inizio c'è una corsa, diciamo, a utilizzare lo strumento, perché da utilizzare anche coloro che in qualche modo non sono legittimati o non hanno i presupposti. Poi si consolida una giurisprudenza e si arriva, diciamo, e ci si attesta su quello che è, diciamo così, l'andamento fisiologico, l'utilizzo fisiologico di quel tipo di strumento. E credo che questo in 6-7 mesi si può incominciare a vedere esattamente, diciamo, qual è il livello standard. Ripeto, all'inizio sicuramente ci sarà un tentativo di utilizzarlo anche improprio da parte di chi non ha capito esattamente o fa finta di non capire esattamente qual è il perimetro dell'utilizzo di questo strumento. C'è un'ultima domanda che le voglio fare e che esula dal discorso sulla responsabilità civile dei magistrati. l'altro ieri ad Effetto Giorno abbiamo avuto ospite un esperto di intelligence, il quale ci ha detto ci sono due grossi rischi per l'Italia. Il primo viene dai cosiddetti foreign fighters, e parliamo di jihadismo internazionale. L'altro è quello del proselitismo nelle carceri. Io mi sono ricordato che qualche giorno fa, tra forse qualche polemica, lei è stata la prima persona, tra l'altro, a sollevare questo tema. Allora, ci spiega quant'è effettivo questo rischio e che cosa si può fare per ridurlo? Il rischio è effettivo perché noi abbiamo una popolazione, una percentuale molto alta di popolazione carceraria che proviene da paesi nei quali sono attive queste organizzazioni jihadiste, e quindi diciamo questo rischio esiste. Io, incrociando molti strali, ho detto una cosa: noi dobbiamo fare in modo tale che non ci sia nessun pretesto, nessuna forma di violazione dei diritti possa aumentare il consenso di questa organizzazione nella popolazione islamica, che naturalmente non significa sia necessariamente legata a queste visioni, ma che lo può diventare nel momento in cui ci può essere in qualche modo una qualche forma di discriminazione. È stato scritto che io volevo dare priorità ai musulmani, eccetera. Mi riferivo in particolar modo al diritto di culto. Il diritto di culto nelle nostre carceri è assicurato a tutti, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo semplicemente applicare un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Ma è molto importante fare, diciamo, attenzione a non consentire che cresca un brodo di cultura nel quale gli agitatori, i reclutatori di queste reti possano trovare, diciamo, uno spazio di manovra significativo. E in questo senso naturalmente bisogna anche stare attenti contemporaneamente, questa è un'attenzione, ci vuole un giusto punto di equilibrio, che la rete stessa del culto possa essere utilizzata indirettamente in questo senso. Abbiamo visto che c'erano, diciamo, agitatori che si nascondevano dietro la maschera in qualche modo di predicatori, e quindi in questo senso si tratta di avere, diciamo, la giusta oculatezza. Ci spostiamo all'estero e apriamo un'ampia pagina dedicata ad ISIS, che ci porterà a parlare delle fonti di finanziamento da una parte, dei foreign fighters, di un racconto dal territorio e anche della distruzione di alcune statue nel museo di Mosul, immagini che hanno colpito moltissimo. Iniziamo dalla cronaca. Saccheggi di banche, estorsioni, controllo di pozzi petroliferi e raffinerie, rapine, tassazione illecita di beni di transito, ma anche rapimenti di occidentali e donazioni anche da o attraverso ONG. Così si finanzia lo Stato Islamico, scrive in uno studio il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale o Financial Action Task Force, un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e dal 2001 anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Ed è proprio il bisogno di ampi finanziamenti a rappresentare, secondo gli analisti, il punto più vulnerabile dei terroristi. Nel rapporto si legge anche che l'ISIS dispone di circa 15.500 foreign fighters, di cui 50 italiani, che danno supporto fisico e monetario sia raccogliendo denaro sia beneficiando di finanziamenti delle diaspore. Tutto questo mentre proprio oggi il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha detto a Uno Mattina che dalla fine di dicembre sono state espulse dall'Italia 21 persone sospettate di radicalismo violento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre la nostra Valentina Furlanetto ha intervistato Marzio Babille, che è il responsabile per l'UNICEF in Iraq, tra le altre cose gestisce anche campi di rifugiati in uscita dalla Siria, e fa anche un discorso in questa intervista, a nostro giudizio molto interessante, su come l'ISIS riesca a ben comunicare i suoi successi, mentre in realtà perda terreno dal punto di vista militare. Mentono sull'avanzata, mentono sulle capacità, mentono sul fatto di avere appoggio popolare, danno tagli sensazionali alle cose, tipo questa informazione delle ultime 48 ore dove sembrerebbe che a Raqqa ISIS abbia istituito una scuola di lingua inglese per consentire ai combattenti non arabi di mandare a scuola i figli. Ma insomma, chi ha verificato questo? Insomma, secondo me, ma questa è un'opinione personale, la comunicazione strategica dell'Occidente in generale, quindi anche quella italiana, dovrebbe controbilanciare questa bugia mediatica permanente di ISIS con una dimostrazione di forza. Cioè, quello che io non trovo soprattutto nei social media è una risposta adeguata per forza, energia e determinazione paragonabile a quella che loro hanno. C'è un combattimento mediatico da fare, c'è un aspetto comunicativo che ancora non decolla. Quindi la guerra sul fronte, diciamo, della comunicazione la stiamo un po' perdendo, mentre l'altra magari la vinciamo un po' di più, ma non lo comunichiamo bene. È vero, e soprattutto a livello di messaggi non possiamo continuare a considerare vincente il nemico. All'inizio di febbraio proprio l'ONU aveva diffuso un rapporto sull'ISIS abbastanza scioccante, di bambini sepolti vivi, crocifissi, usati come scudi umani. La realtà dei fatti sul campo ci indica che questi episodi sono accaduti. Noi abbiamo evidenza di bambini che sono stati uccisi o torturati, bambini che sono stati separati dopo essere stati rapiti dalle loro famiglie, irreggimentati nelle scuole islamiche, però esistono delle buone notizie. In questo momento UNICEF e i suoi partner lavorano con 352 bambini delle minoranze, quindi cristiani, yazidi, Shabak, che sono stati liberati. Ci sono anche nuove storie positive per quanto riguarda le donne. Lei ricorderà che la stima delle donne yazide rapite durante l'offensiva era di quasi 5.000 unità, e in questo momento abbiamo l'evidenza di oltre 2.000 di queste donne sparite, di cui abbiamo nomi, cognomi, numeri di telefono e soprattutto data e zona di rapimento. La buona notizia è che 290 di queste sono state in qualche modo o rilasciate o si sono liberate nel corso delle operazioni di sicurezza o dei bombardamenti della coalizione. C'è l'altro fronte oltre a quello delle violenze, in particolare quelle contro i cristiani. L'altro fronte è quello della distruzione delle statue nel museo di Mosul. Le immagini le avete presenti tutti quanti. Abbiamo sentito Franco D'Agostino, che è docente di assirologia all'Università di Roma La Sapienza ed è il capo della missione archeologica italiana in Iraq. Una missione che in realtà prosegue perché in una zona più tranquilla del paese, tanto che, come sentirete in questa intervista, D'Agostino ci dice: sono tornato da 20 giorni dall'Iraq e tra l'altro ci ritornerà presto. Gli abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci quali siano questi reperti che sono andati distrutti. Tra l'altro arrivano delle voci secondo le quali alcuni di questi reperti erano delle copie. Di spiegarci, gli abbiamo chiesto anche perché gli estremisti islamici si accaniscano su queste opere d'arte, su questi reperti archeologici. Sentiamo. Nel 1991, dopo la prima guerra del Golfo, quando tutti i musei periferici furono depredati, Saddam Hussein dette ordine di riportare tutti i reperti dei musei periferici, compreso Mosul, a Baghdad. Quindi gran parte dei reperti del museo sono stati riportati a Baghdad e, a quanto consta a me, finora non sono stati ancora restituiti. Questo significa che il museo non era ricchissimo di oggetti, era ricco di oggetti intrasportabili essenzialmente, quali le grandi statue assire a protezione delle entrate dei palazzi, che noi chiamiamo la Massu, in babilonese vuol dire genio protettore, e le statue di Hatra, questa città a sud-est di Mosul, che è una delle città del patrimonio dell'umanità. Ma a parte questo, non c'era altro materiale importante all'interno del museo. Questo vuol dire che secondo me ci sono poche copie, che in realtà quello che noi abbiamo visto non si trattava essenzialmente di copie, ma ahimè di originali, ma che per fortuna il museo non era così ricco come sarebbe potuto essere se fosse stato pieno degli oggetti prima del 1991, qual era la situazione prima del 1991. Detto questo, gli oggetti che loro hanno distrutto sono di importanza straordinaria per la storia archeologica della Mesopotamia, del nord e della Mesopotamia Mesopotamia in genere, cioè della storia dell'Iraq in genere, e sono statue che hanno dai 700 ai 1000 anni, diciamo, quindi hanno, oltre alla loro antichità, hanno anche una grande importanza storica. Le dico, il sito di Hatra, da cui provengono le statue, è un sito che, uno dei pochi siti iracheni che è immesso all'interno del patrimonio, della lista patrimonio dell'UNESCO, insomma. Questo dal punto di vista puramente storico. Allora, professore, io so che lei in Iraq ci ha lavorato, no? È stato anche a capo della missione archeologica. Sì, sono a capo, noi continuiamo. Io sono tornato 20 giorni fa dall'Iraq, quindi noi continuiamo a operare senza difficoltà con l'Iraq meridionale. Dove lavorate voi? Guardi, io ho una missione nel sito di Abu Beira, che è 7 km a sud di Nassiriya, e abbiamo la nostra casa missione nella città di Ur, che è una città più importante dal punto di vista religioso, che in quanto è quella in cui nacque, secondo quanto dice Genesi, il profeta Abramo, che viene venerato sia dagli ebrei che dai cristiani che dai musulmani stessi. Quindi è una città importantissima, un po' il centro, diciamo, del mondo monoteista, e noi abbiamo fatto già 4 missioni, lavoriamo insieme a loro, e questo è un po' il nostro modo di reagire insieme agli iracheni a questa diciamo terribile avventura dell'ISIS, delle realtà dell'ISIS. Senta, nelle zone nelle quali lavorate voi normalmente non ci sono rischi, o sì? No, rischi di natura militare, di natura diciamo di bande armate, eccetera, questo no. Il paese nel suo complesso è ovviamente instabile, anche per esempio economicamente, eccetera, a causa proprio della guerra e delle enormi spese che hanno per questo. Però mi creda, noi siamo lì proprio su richiesta irachena, proprio perché loro vogliono continuare a costruire il paese, non vogliono vivere una vita in emergenza. Hanno vissuto gli ultimi 40 anni in emergenza, quindi noi siamo lì e facciamo, come dire, questa attività postcoloniale, cioè basta andare lì e insegnare a loro le cose, noi andiamo lì per cooperare con loro. La nostra attività nasce dalla unione dei nostri sforzi insieme ai loro, e insieme decidiamo che cosa si deve fare. Quindi l'Iraq sta facendo uno sforzo enorme per uscire dall'emergenza, e ISIS è purtroppo un fenomeno drammatico. Mi spiega una cosa, professore, proprio perché lei lavora costantemente con l'Iraq e probabilmente ha a che fare con questo mondo, queste cose le ha studiate. Può spiegare ai nostri ascoltatori come mai gli estremisti islamici si accaniscono, e non è il primo caso, penso a quello che è successo con i talebani, si accaniscono su questi reperti storici? Sì. Guardi, il vero problema nel mondo islamico per quanto riguarda l'iconoclastia è il concetto, diciamo, di idolatria. Nel mondo islamico non si accetta l'idea che ci possa essere un feticcio costruito dall'uomo per il quale si abbia una attenzione religiosa che distrae dall'unica vera attenzione religiosa, che è quella che si deve avere nei confronti del Dio, dell'unico Dio. Chiaro il punto, cioè c'è una, come dire, loro rifiutano, perché rifiutano questo tipo l'arte, soprattutto l'arte scultorea, perché la considerano una forma di idolatria. Quindi non c'è, come dire, la capacità di storicizzare tutto questo. Ma guardi, nel mondo, nella tradizione monoteista, mi permette di dire, compresa la nostra, c'è un momento topico che è appunto la rivelazione, quando il Dio si rivela attraverso Maometto nel caso dell'Islam, attraverso il mondo ebraico, attraverso Cristo nella nostra tradizione, e quando il Dio si rivela la storia prende un'altra linea. Tutto quello che è successo prima viene visto sotto una diversa luce, sto parlando del tutto ideologicamente, dal punto, diciamo, dell'ideologia religiosa, capisce che voglio dire? Quindi il problema di ISIS è che, guardando al pregresso della rivelazione, vede una minaccia a sé, ma questa è una visione molto minoritaria all'interno dell'Islam, non tutto l'Islam vede le cose in questa maniera, anzi direi, ripeto, che è molto minoritaria questa visione così drammatica, così letterale dell'interpretazione dei versetti del Corano in questo settore, capisci che voglio dire? Sì. Vorrei capire da lei, infine, dato che lei conosce quelle zone, che altri reperti, che altri tesori archeologici potrebbero essere a rischio? Per quanto riguarda la zona di ISIS, ovviamente. Naturalmente, sì. Sì, Guardi, è una zona molto, molto ricca di archeologia. D'altronde tutto l'Iraq è un paese enormemente ricco di archeologia. Noi abbiamo ben 12.000 siti archeologici, dall'8.000 fino all'avanti Cristo, fino al periodo islamico, che sono già stati messi in pianta in Iraq, e una grande parte di questi si trova proprio nell'area in cui si trova ISIS. Per esempio Mosul è in realtà costruita sulla grande capitale assira, l'ultima grande capitale assira, che era Ninive, con tutto quello che lei può immaginare, no? È stato uno degli imperi più grandi prima di quello di Roma, quindi con una anche ricchezza e lusso, eccetera, quale uno si può immaginare. Le ripeto, ci sono moltissimi siti, perché vede, il sito grande è un sito anche che si può proteggere, appunto c'è un'evidenza internazionale, una risposta internazionale, ma ci sono moltissimi siti minori che sono saccheggiati e utilizzati da ISIS per finanziare la propria guerra, perché il terzo canale di rifornimento di ISIS economico è proprio la vendita degli oggetti trafugati sia in Siria che in Iraq, che permettono a loro di avere i fondi necessari per continuare la loro guerra. Quindi i beni culturali sono al centro di questo meccanismo di ISIS, sia in negativo ideologicamente che in positivo dal punto di vista del valore che dimostrano, insomma, che hanno. Un capitolo dedicato alla cronaca non può che tener conto della vicenda, ci siamo occupati parecchio della chiusura delle indagini per quanto riguarda l'omicidio di Yara Gambirasio. Omicidio volontario aggravato e calunnia sono questi i reati contestati a Massimo Bossetti. Suo il DNA trovato sugli slip e sui leggings di Yara. La procura la chiama la prova granitica, intorno alla quale ruota l'impianto accusatorio con una serie di altri elementi. Ci sono le telecamere che hanno filmato il furgone dell'uomo il giorno della scomparsa della ragazzina, le fibre dei sedili del mezzo trovate sui pantaloni e sul giubbotto di Yara e ancora le celle telefoniche. Da settembre a novembre 2010 un'utenza di Bossetti ha agganciato per 31 volte quelle che coprono anche la zona della palestra frequentata da Yara e da dicembre a maggio del 2011 altre 68 volte. Nel primo periodo inoltre ha agganciato per 13 volte le celle che includono il campo dove fu trovato il cadavere e dal dicembre altre 185 volte. Infine la testimonianza di una donna. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Quando se ne vanno i ladri è l'insicurezza quella che resta, quella sensazione che poi trasforma le case in fortini blindati con allarmi e telecamere. Quando se ne vanno i ladri sono le abitudini delle famiglie spesso a cambiare, e questo succede 689 volte al giorno in Italia, calcola il Censis. Ma cambiano anche da nord a sud, dalla periferia al centro, bande e trucchi di chi si intrufola negli appartamenti, soprattutto se vuoti, dice a storiacce il numero 2 della mobile di Milano, Maria Falcicchia. Delle bande più organizzate scelgono anche obiettivi che si presentano già proprio come posti dove si possono trovare bottini molto importanti. Si innalzano i numeri in concomitanza con i fine settimana, con le vacanze. Su Milano, diciamo, una forte predominanza e più che altro di etnie che vengono dalla ex Jugoslavia. Nel resto d'Italia sono i georgiani, con le loro chiavi capaci di aprire ogni serratura, ad essere i più temuti e a lasciare su porte e citofoni messaggi in codice X, buon obiettivo, quattro cerchietti, bottino alto, Z, cane in casa, segni che hanno creato il panico in un paese come Santa Maria di Sala nel Veneziano. Il governo annuncia provvedimenti e nel frattempo le famiglie continuano a blindarsi nelle loro case. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo infine allo sport, iniziando dai sorteggi di Europa League che vedono la Fiorentina scontrarsi con la Roma. Carlo Genta. Sono 5 italiane su 16 e questo è bellissimo, qualche derby adesso che non c'erano più vincoli, se non uno che secondo alcuni ha condizionato questo sorteggio, perché sai che russe e ucraine non potevano incontrarsi, era questo l'unico paletto rimasto, però un derby era preventivabile, sarà Fiorentina-Roma per questi ottavi di Europa League, riedizione tra l'altro dell'ultima finale di Coppa Italia, che ricordiamo anche per tristi eventi. Per la Fiorentina non è un inedito trovare sulla sua strada altre italiane, perché praticamente ogni volta che fa strada in Coppa ne becca una. Quanto alle altre, benissimo non è andata. Quella che ha pescato meglio è stata al Napoli, con la Dinamo Mosca giocherà la prima al San Paolo ed è l'avversario più abbordabile. Per il Torino, meraviglioso ieri sera al San Mamés di Bilbao, ci sarà lo Zenit San Pietroburgo, che è una delle squadre più quotate. Per l'Inter c'è il Wolfsburg, che non ha un grande nome, non ha un grande palmarès, ma ha una grande classifica nel campionato tedesco, nella Bundesliga, perché è secondo della classe e ha battuto il Bayern Monaco rifilando le 4 gol, quindi per l'Inter non benissimo. Fiorentina-Roma non sarà l'unico derby di questi ottavi di finale, perché si incontrano anche le ultime due spagnole sopravvissute, che sono Villarreal e Siviglia. È altrettanto vero che il giollone, per chi passa il turno, sarà un avversario piuttosto abbordabile, perché le altre sono Dinamo Kiev, Everton, Dnipro Ajax e Bruges Besiktas. Quindi questo scoglio è alto per le italiane, ma chi passa potrebbe avere una sorta di strada spianata verso il paradiso. E per chiudere la pagina sportiva siamo al ciclismo e siamo a parlare dell'Astana, la squadra di Vincenzo Nibali, che potrebbe essere esclusa dal Tour de France. Nibali e la sua Astana rischiano seriamente di non correre il Tour de France e tutte le più importanti corse del calendario mondiale. La notizia è rimbalzata dalla Francia all'Italia e ora anche la conferma dell'UCI, l'organismo mondiale del ciclismo. La storia sembrava chiusa sul finire dello scorso anno, quando l'Astana, il team kazako capitanato da Vincenzo Nibali, era finito sotto osservazione della commissione indipendente delle licenze per le molte positività avute nella scorsa stagione. Poi, dopo un'attenta analisi, la commissione aveva dato il via libera al team, riservandosi però la possibilità di rivalutare il caso qualora fossero emersi elementi nuovi. Nuovi documenti sono arrivati, come ha confermato in una nota stampa la stessa UCI. Cosa può succedere ora? Senza licenza, che garantisce il diritto di correre le più importanti corse del mondo, il team di Nibali avrebbe bisogno delle wild card per poter correre. Dovrebbero essere in pratica invitati dagli organizzatori e la cosa non è né scontata né tantomeno automatica. Si profila una dura battaglia legale al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, e se dovesse andar male, il team kazako, uno dei più forti e ricchi del mondo, potrebbe seriamente pensare di abbandonare il ciclismo e Nibali e Auro finirebbero sul mercato. Pier Augusto Staggi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Grazie per averlo scaricato. Scriveteci per riflessioni, idee, tutto quello che volete. Qualcuno lo sta già facendo. Continuate, perché anche queste trasmissioni, insomma, pur codificate, pur premiate dagli ascolti, hanno sempre bisogno di una rinfrescata, di idee nuove, sono sempre dei cantieri. Il vostro giudizio, le vostre idee, le vostre valutazioni mi fanno piacere. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci via mail, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia. Grazie a Valeria Bernardi per la parte tecnica. Ci si sente lunedì alle 13:00.